Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali di Matteo Caccia. Questo è l'episodio speciale di Linee d'ombra, che il sabato sera vi racconta un pezzo di quello che vi raccontiamo durante la settimana. Durante la settimana noi per un'ora vi raccontiamo storie legate ai vizi capitali, e quindi ogni puntata ha un episodio diverso di un vizio diverso. Quindi c'è la puntata dedicata alla superbia, quella dedicata alla gola, quella dedicata ai nuovi vizi capitali. Insomma, ne abbiamo scovati alcuni in base alle storie che ci sono arrivate. Ad esempio, l'eccesso di velocità abbiamo immaginato possa essere un nuovo vizio capitale: il fatto di non essere in grado di rallentare e di provare a prendersi un pochettino più di tempo per voi e per noi, ovviamente anche per noi. E vi dicevo, ogni puntata però finisce con una storia seriale, una storia che prosegue nel tempo, nei giorni e nelle settimane. Questa è la terza settimana della storia seriale dedicata al vizio dell'ira. Il protagonista si chiama Giorgio, è rimasto orfano di padre. Il padre è stato ucciso negli anni 70 dalle Brigate Rosse, e lui nella sua vita ha covato tantissima, tantissima ira. Il judo non è stata una scelta violenta. Ho iniziato a farlo che avevo 6 anni. Il judo di fatto per me è la più figa delle arti marziali. Perché è un'arte marziale che, se fatta nel modo giusto, ti dà disciplina, ti dà conoscenza del corpo, oltre al fatto che per le tecniche che usa si sviluppa, è una delle pochissime, forse l'unica sport insieme al nuoto, che ti sviluppa tutto il corpo in modo armonico allo stesso modo. Per cui mia mamma, quando avevo 6 anni, mi ha detto: scegli, o fai nuoto o fai judo. Io faccio judo. E da lì in realtà mi ero appassionato poi di arti marziali. Poi dopo, crescendo invece, quando mi volevo vendicare, il mio obiettivo era tutt'altro. Mi sembrava troppo facile andare a tirare un colpo in testa a queste persone. Mi avevano insegnato a sparare da piccolo e avevo anche una mira pazzesca, innata. Ma se mi può piacere sparare a un tiro a segno, non riesco nemmeno a immaginare di sparare a un essere vivente. Non ho mai usato armi di nessun tipo. Anche nei momenti in cui mi sentivo in pericolo, nei momenti in cui avevo paura che qualche delinquente volesse farmi del male, non ho mai girato nemmeno con un coltello. Credo che anche questa sia un'eredità di mio padre. Se spari a qualcuno o lo accoltelli, hai molte probabilità di ammazzarlo. Se invece lo colpisci a mani nude, ci sono più possibilità di sopravvivenza. E poi io volevo andarli ad ammazzare con le mie mani. Il mio progetto era proprio di massacrarli. Il mio sogno era di prenderli e staccare loro un pezzo dopo l'altro. Lo dicevo sempre: voglio staccargli la testa con le mie mani. La mia idea era proprio quella di fare loro del male. Volevo vederli soffrire e volevo farlo con le mie mani. Ho iniziato ad allenarmi tutti i giorni. La testa con cui lo facevo era proprio per prepararmi ad ammazzarli, ma appunto con le mie mani. In palestra facevo le schede per aiutare gli atleti professionisti ad allenarsi. Quando uno si preparava tutta la palestra. 6 mesi prima dell'incontro inizia a darci dentro, poi 3 mesi prima si fa solo quello. E hai degli schemi di allenamento che ti impegnano anche 15 ore al giorno. Diventa pesante, vai a correre alle 4 del mattino e non fai mai stare l'atleta da solo, mai. Io facevo da accompagnatore nella corsa mattutina e nei guanti al pomeriggio. Mi appassionò anche la Thai box. Mi piaceva usare le gambe, infatti oltre al pugilato facevo gli allenamenti specifici per la Thai box. Ma se tu vedi, anche quelli che fanno Thai non sono enormi. Quelli che fanno Thai, tutti vedi, quello che fa Thai deve essere veloce e elastico. Poi ovviamente muscolarmente ero più tonico di adesso, ma poi quando impari a tirare un calcio con tutto il corpo, non ti serve avere il quadricipite grosso così, ti serve che ti si giri tutto il corpo funzionalmente per tirare il calcio. C'è la cosa che avevo io, quando facevo Thai, che ti mettevo di fronte a te e ti facevo passare il piede sopra la testa, ma tenendo la gamba ferma, non proprio ta-ta. La disciplina fisica mi ha anche aiutato molto a sopravvivere alle dipendenze. Allenandomi così tanto buttavo fuori un sacco di tossine. Io ho un fisico forte di base, ma la palestra è stata un'ancora di sopravvivenza fortissima nei momenti più bui. Ci ho impiegato anni a trovare gli indirizzi di dove vivevano. Mio padre era stato un grande investigatore e io dovevo essere alla sua altezza. Ai tempi non c'era internet e mica li trovavi sulle pagine gialle. Che erano i famosi, perché io ero ignorante. Io non è che avevo fatto una scelta in base a delle responsabilità specifiche. Io quelli famosi che vedevo, Moretti, Morucci, Gallinari, Bonisoli, quelli più famosi, e Curcio ovviamente, però Curcio era l'unico

iniziato con la cocaina, le prime botte, ho avuto 16-17 anni e ho smesso da 13 anni fa. L'ultimo colpo l'ho fatto 13 anni fa. Pendenza vera, io ho iniziato quegli anni lì, avevamo iniziato nel gruppo ristretto di amici. In quel periodo mia mamma aveva capito che stavo diventando un po' aggressivo, stavo iniziando a crescere e a formarmi delle opinioni sulla nostra famiglia. Inoltre avevo iniziato a frequentare persone del quartiere un po' pericolose, che avevano a che fare con la criminalità e soprattutto con le droghe. Per questo aveva deciso di spostarmi in una scuola in centro a Milano, il Cardinal Ferrari. Era una scuola media della buona borghesia milanese. Mamma si era convinta che spostarmi dalla Barona in centro avrebbe migliorato le mie frequentazioni e invece ha ottenuto l'effetto opposto. Ho cominciato a fare amicizia con ragazzi molto benestanti, con i quali stavo bene, anche se mi mancava il mio gruppo di amici del quartiere. Fra i miei nuovi amici, in particolare stringo amicizia con Francesco. Lui è il figlio di un mercante d'arte molto noto in città, abita in Corso Italia, una zona decisamente altoborghese. Appena lo conosco mi dà quasi fastidio quel suo modo un po' distaccato di vedere le cose. Ma anche lui, come me, è tifoso del Milan. E basta questo perché il nostro legame diventi fortissimo. Un giorno sono a casa sua, dopo la scuola. L'intenzione è quella di fare un torneo di subbuteo con degli altri ragazzi più grandi di noi, berci una birra insieme e chi perde paga. Ma prima che arrivino gli altri, conosco sua sorella. È un po' più grande di noi, ma Francesco ci tiene a presentarmela. Lei non si mostra particolarmente incuriosita dal conoscermi, ma quando le racconto dove abito, lei mi dice che il suo fidanzato è della Barona. Come si chiama? Le chiedo. E quando lei mi fa il nome, io trasalisco. Il suo fidanzato è il boss della cocaina della Barona. E io lo conosco benissimo. La nostra conoscenza reciproca mi fa scalare di posizione sia nella cerchia degli amici del centro, sia in quella in periferia. E quindi avevo questo gruppo di amici qui, questo boss qui che era più grande di noi, che a me mi aveva preso un po', già mi conosceva di vista, ma poi mi aveva preso un po' sotto l'ala, perché io in mezzo lì ai ricchi venivo comunque dal suo quartiere, ero più sgamatè, ero più del quartiere anche rispetto agli altri, per cui mi aveva preso un po' sotto l'ala, ci aveva preso tutti, ci voleva bene a tutti, ma a modo suo ci voleva veramente bene. E a modo nostro gli abbiamo voluto bene, perché ci sono stati, è vero che tra virgolette lui che ci ha iniziato la cocaina, le droghe pesanti, però è anche vero che ci sono stati dei momenti in cui ci ha dimostrato che a modo suo ci voleva bene. Poi sono quegli amori tossici. Avete programmi per domenica? Io vi invito a pranzo. Alle 12 alla Bufala in Tavola scopriamo insieme a tanti esperti cosa mettere nel piatto per coniugare gusto e salute. Perché? Perché la salute vi è mangiando. E se l'idea vi alluzza, ne approfitto per ricordarvi che vi aspetto anche al sabato, sempre alle 12, con obiettivo salute weekend. Ormai mi avete riconosciuto, sono sempre io, la vostra salutare ossessione quotidiana, la vostra Nicoletta, che neppure nel weekend vuole abbandonarvi. Allora restate con me, ci conto, non mancate. Marquez lo porta verso l'interno, non molla Andrea Dovizioso, la infila con una bella derapata, con il cuore, è dentro, con il cuore, oddio, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Con il cuore, con la mente, con l'orgoglio, con la volontà, perché a vincere alla fine è uno soltanto. Sono Dario Ricci e ogni domenica alle 16.30 a Olimpia vi racconterò i grandi duelli della storia dello sport. Naturalmente qui su Radio 24. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. La storia di Giorgio Bazzega, figlio di Sergio Bazzega, la stiamo raccontando grazie alla sua voce diretta, grazie alla storia raccontata da Mauro Pescio. Giorgio ci sta davvero regalando con le sue parole la sua esperienza di coltivazione della rabbia, al punto da farla diventare una speranza profondissima di vendetta, proprio con l'idea di vendicarsi con le sue stesse mani. Per via delle sostanze ho cominciato a frequentare ambienti in cui si facevano tutti. Le persone che comandavano in Barona nel giro di pochissimo tempo si sono allargate nelle discoteche e nei locali di Milano.

by the pale afternoon. And I watch while you're lured down to your deathbed. And I stand over your grave till I'm sure that you're dead. In quegli anni ho vissuto come dentro un film d'azione. Per tenere a bada il mio desiderio di vendetta mi sono spinto al limite. Non ho avuto un ruolo da protagonista, ma sono stato presente in molte situazioni. Allora, vacanze d'estate. C'è questo qua che era fidanzato con la sorella del mio amico, okay, che era uno dei boss qua del quartiere, che dice: no, ragazzi, no, quest'estate siete ospiti miei, ho affittato una villa a Liscia di Vacca. Liscia di Vacca è il posto più figo a Porto Cervo. Che è sopra in collina dove ci sono tutte le ville fighe. Eravamo un gruppetto di 5 amici, 3 sbarbati come me e 2 capi, più le fidanzate dei 2 capi. Loro due ci aspettavano già in Sardegna e da Milano saremmo partiti io e gli altri ragazzetti. Niente, dobbiamo partire, io con sto mio amico faccio: allora guarda, facciamo una roba, andiamo a trovare Lorenzo, che era il terzo, l'altro, andiamo a trovare lui, dobbiamo prendere il traghetto a Genova. Faccio, andiamo a... era in Liguria, il nostro amico. Faccio, andiamo in Liguria, andiamo a Dida. Allora, facciamo serata, almeno non dormiamo e dormiamo in traghetto, che se no in traghetto, cioè, mi rompo il cazzo, non dormo, cosa, impazzisco. Allora partiamo e lui fa: beh, portiamoci anche, mi ricordo ancora, portiamoci un po' di più da fumare per là. Io faccio: ma sei scemo? Gli faccio: ma, cioè, ma andiamo là, da cosa? Ma vai all'Ottoberfest e porti la birretta, fammi capire. Cioè. Arriviamo in Liguria dal terzo amico, usciamo, pippiamo, cagliamo, ci spacchiamo come si deve, fino alle 7 del mattino. Quando andiamo al porto? Arrivati al porto, finiamo tutto quello che abbiamo e saliamo in nave. Andiamo in nave, io mi ricordo sta nave, che continuavo a conoscere persone che arrivavano, parlavano, cioè, vabbè, parliamo, così, ma che simpatici. Mi ricordo questa cosa di sto viaggio, che poi dicevo: mica, come sono socievoli su sta nave. Una volta sbarcati a Olbia, abbiamo appuntamento con gli altri a Porto Cervo. Arriviamo, si scende, facciamo i soliti tamarri, loro ci aspettavano con una canna accesa. Uno di noi sale in macchina con loro e ci avviamo, ma appena fuori dal paese una panda ci taglia la strada e si infila in mezzo tra noi e loro. Io fuori dal finestrino: figlio di puttana, fermati, faccio, Daniele, fagli fare a sto pezzo di merda, ci sta venendo addosso. Io ero una testa di cazzo che volevo menarlo. Ero fuori dal finestrino a casa, intanto seguiamo sto Giacomo, piglia sta strada sterrata, arriva davanti al cancello della villa, sta macchina ancora dietro, arriviamo noi nel momento in cui ci siamo fermati noi, si aprono le portiere. Cioè, dai cespugli ho visto saltare fuori 2 col fucile a pompa. Uno che scende, quello dall'autista con la pistola, quello dal fianco con un altro fucile a pompa che vanno davanti. Questi arrivano, mi punto, fucile a pompa puntato verso di noi in faccia, da davanti sul cofano. Vai, vai, vai. Il mio amico, preso dal panico, qualcosa, mi giro, voto così, mi giro, lo guardo, vedo che sta mettendo la retro. Che l'ha fatto così con la mano, gli ho tirato una gomitata in faccia. Si chiude qua questo speciale Linee d'ombra dedicato alla nostra storia seriale, tutta basata sull'ira. Se avete voglia di riascoltare questa storia, la storia di Giorgio e di suo padre Sergio, tutta dedicata appunto a questo vizio capitale, potete andare sul nostro sito o sulla nostra app e lì trovate proprio lo slot in cui infiliamo queste 5 puntate di storia. Se avete voglia invece di ascoltarvi tutte le altre, la storia legata all'avarizia, la storia legata alla lussuria, fate lo stesso, andate sul nostro sito e trovate, lo chiamiamo slot perché è semplicemente l'insieme di quelle 5 puntate, di quelle 5 storie messe in un unico blocco. Ora godetevi il vostro sabato sera, godetevi la vostra domenica, noi torniamo lunedì puntualissimi alle 15 a raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!